Llévate La Habana, llévate mi corazón, para que nunca olvides el día que te di mi amor. Si te vas de La Habana, llévate mi corazón, para que nunca olvides el día que te di mi amor. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata. 10 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Te vas, la promesa de volver, te alejas otra vez y me pides que te esperes. Aunque solo uno fuera. Alba ensombrecida, que el tiempo marchitará. Te regalé mi vida, con tu ausencia me la quitas. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo. E finalmente non ce la facevo più, ma non per il pezzo bellissimo, questa era Jarabe de Palo. Ormai questo gruppo ha deciso di chiamarsi Jarabe de Palo senza più spazi fra le parole. Jarabe de Palo tutto attaccato. Questa era La Flacca, rivisitata e rivista in una versione un po' più, non so, forse di classe, ecco. Io sono Buck, bentornati, questa è Radio Pazza. Devo tenere la voce bassa perché dall'altra parte di questo piccolo muro di cartone c'è il mio compagno di stanza che sta dormendo, quindi devo fare molta attenzione a non alzare troppo il tono di voce. Ecco, stavo dicendo, sì, non ce la facevo proprio più perché ho passato 2 o 3 settimane infernali aspettando di riavere indietro il mio computer, che, come avrete letto dal post precedente, o almeno da 2 settimane sta lì attaccato su internet. Beh sì, lasciate perdere, guarda, veramente è stata un'odissea. Ecco, adesso mi è venuto in mente, sì, questa è una puntata speciale. Radio Pazza questa volta durerà tra le 2 ore e le 3. Sì, perché devo recuperare del tempo mio personale. Ho tanta voglia di fare radio, questa è la mia radioterapia. Sono in un momento particolare di crisi, soprattutto nella mia esistenza, e quindi cercherò di curarmi parlando al microfono tutto il tempo. A seguire ho scelto un pezzo sempre in spagnolo, questa è Concha Buica, jodida però contenta, fottuta però felice. A voi. Mamá ya, niño, ¿por qué me haces mucho daño? ¿Por qué me cuentas mil mentiras? ¿Y por qué sabes que te veo? Tú a los ojos no me miras. Yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme de prisa. Que aunque tú ya no me quieras, a mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí jodida pero contenta. Tú me has doblado pero yo aguanto. Dolida pero despierta por mi futuro. bellissima voce quella di Concha Buica. Io l'ho trovata per caso girando i canali qui in Spagna e devo dire finalmente una goccia di novità all'interno di un panorama musicale che veramente certe volte fa cadere le braccia, perché sì, devo manifestare questo mio dissenso nei confronti delle radio spagnole e della loro programmazione, a parte forse per qualche caso eccezionale come, non so, magari Radio 3 della Radio Nazionale di Spagna, che insomma ogni tanto mette in programmazione o soprattutto dei programmi molto interessanti, ecco, divisi per temi. E io vi consiglio di ascoltarla, c'è il link nel nostro blog http://radiopazza.blogspot.com. Non dimenticate di passarci a salutare, magari con un piccolo commento dopo il post, insomma quello che vi pare. Ecco, che stavo dicendo, sì, riprendendo il filo del discorso, bellissima la voce di Concha Buica, e ci dà il pretesto, a parte che in questa canzone descrive esattamente il mio stato d'animo, cioè abbastanza fottuto dalla vita, ma però ancora contento, insomma, contento di essere qui e di fare la mia piccola trasmissione da casa. Sì, devo sempre stare attento a non alzare troppo la voce, perché sennò poi mi ritrovo Alex che mi bussa alla porta lamentandosi in francese, ecco. Allora, il prossimo pezzo che ho scelto, soprattutto per restare in tema di voci interessanti, questo è un gruppo che canta a cappella, un gruppo di giovani, e loro sono i Straight No Chaser. Il pezzo che suonano o che cantano è una bellissima canzone dei Toto, Africa. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. Lit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melody. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Take the time to do the things we never had. Do, do, do, do, do, do, do, do. I bless the rains down in Africa. I bless the rains down in Africa. I bless the rains down in Africa. I bless the rains down in Africa. I bless the rains down in Africa. I bless the rains down in Africa. best to raise out in Africa. It's gonna take the time to do the things we never had. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Veramente suggestiva questa versione di Africa cantata dai Straight No Chaser. E a proposito di Africa, Africa non solo, vorrei ringraziare tutti gli ascoltatori, tutte le persone che si sono connesse attraverso il nostro blog per ascoltarci. Questi sono, diciamo, i paesi che le statistiche fornite da itstats.com ci dicono sul flusso di ascoltatori di Radio Pazza. Beh, io voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno ascoltato dalla Francia, dagli Stati Uniti, dalla Cina, dalla Romania, dal Canada, dal Brasile, dal Giappone, dalla Grecia, dalla Danimarca, dalla Svezia, Spagna, Argentina, Regno Unito, Germania, Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Bolivia, Portogallo e tutti gli altri che non ho potuto e né ho avuto il tempo di poter salutare. Molti trovano anche utile magari ascoltare una radio italiana all'estero, soprattutto per imparare magari la lingua. Certo, noi non siamo il migliore esempio, però ce la mettiamo tutta, almeno per darvi un momento di piacevole intrattenimento. A questo punto non ci limitiamo solo all'Africa, ma magari facciamo un piccolo giro del mondo. Questi sono i tre allegri ragazzi morti, che cantano una versione magari più punk o più rock della famosissima Around the World dei Daft Punk. Effetto da giro, giro, giro tondo, qui casca il mondo, fa più che altro girare la testa. I tre allegri ragazzi morti ci lasciano in conclusione un piccolo tributo elettronico ai Daft Punk, dai quali hanno gentilmente, come dire, preso in considerazione il loro pezzo Around the World, rifatto all'italiana Io giro il mondo, giro il mondo. Comunque, che dire, beh, non tutte le persone, non tutti i fans dei Tre Allegri Ragazzi Morti hanno apprezzato magari questa versione, come ho potuto vedere nei commenti al video che sta su YouTube. Però la cosa è comprensibile, insomma, vista anche la enorme differenza che c'è fra i due pubblici dei rispettivi gruppi musicali, mentre i Daft Punk magari fanno più pezzi dance, electro, pop, invece i Tre Allegri Ragazzi Morti hanno voluto cercare un compromesso, forse anche per mettersi alla prova. Comunque, che dire, di seguito qui ho scelto un gruppo sempre italiano che trovo molto vicino ai Tre Allegri Ragazzi Morti, ma che incarna secondo me ciò che è il grunge in Italia, se sempre di grunge si può parlare. Comunque, questi sono i Verdena, che ci offrono, invece che un gioco di elettronica, un gioco di parole. Il loro pezzo è veramente interessante, si intitola Muori di lei, lo potete anche ascoltare sul loro MySpace. Povero clown, povero clown, che mestiere che si è scelto. Però è un po' la scelta che compiono tutte le persone che, come me o come gli altri, cerca di mettersi in discussione, cerca di dare spettacolo di sé. E quindi niente, la cosa più importante è affrontarlo col sorriso, o comunque, tra virgolette, saperlo fare. Ci si mette forse tutta la vita a accettare il riso degli altri. E infatti non è che mi prendo molto sul serio, però può sembrare da questa voce un po' impostata e notturna, ma sono le condizioni, ve lo giuro, sono le condizioni in cui verso in questo momento. Devo fare con molta attenzione, poco rumore. E che dire dei Verdena? I Verdena hanno ammazzato un po' il delay, ma che dire, hanno ridato vita al rock and roll, nel quale riconosco, in questo pezzo intendo, riconosco, come dire, una certa scuola, forse rappresentata negli Stati Uniti da chi meglio se non Lenny Kravitz. Comunque sono opinioni, poi magari se avete qualcosa da dire o da ridire postate, scrivete, commentate, mandate anche una mail, la nostra mail è radiopazza@gmail.com, molto semplice. E poi siamo anche su MySpace con myspace.com/radiopazza tutto attaccato, quindi ci potete anche trovare poi se volete su Twitter, su Facebook, insomma fate una piccola ricerca, anche su Google ci trovate facilmente, Radio Pazza o tutto attaccato o staccato, chissà, poi se non ci volete non ce ne frega niente, questa è una radio fatta in casa liberamente, senza alcuno scopo di lucro soprattutto, quindi non dobbiamo dire né grazie a nessuno, né prego, né arrivederci, né buongiorno, facciamo come cazzo ci pare. Comunque, che volevo presentare adesso? Ah sì, ce l'ho qua la lista dei pezzi. Eh sì, perché questa sera ne ho messi veramente tanti, infatti vi sto offrendo almeno, credo, 180 minuti di musica e tante chiacchiere mie. Questi sono di seguito sì, bellissima questa formazione che nasce parallelamente e per scherzo per volontà di Jack White dei White Stripes. Questi sono i The Raconteurs con Consoler of the Lonely. Stay. Wow. Nelle orecchie è stato un po' come l'equivalente della consistenza e del sapore che ha nella bocca un gelato variegato all'amarena. Che ne so, mi è uscita così questa. Così, di estro. Comunque, The Raconteurs. Ma si sente comunque l'impronta di Jack White. Non c'è niente da fare, a parte che per la voce, ma anche per la scelta e per il gusto di certi suoni crudi. Che senti che roba. Oddio, è figo, è figo. C'è stato un momento poi in cui il pezzo è rallentato, mi ha dato un po' la sensazione che da ascoltare Kid Rock, in cui si mischia il rock and roll con l'hip hop. Vabbè, sono deliri notturni miei. Notturni perché non solo per l'orario, ma anche un po' per la dimensione, per la situazione con camera, con le luci non troppo forti, con la scrivania in un disordine totale dove ci sono fazzoletti vecchi, fili, mixer, il mio synth, un orologio, che ne so, 10.000 oggetti, poi c'ho anche una superficie che ho riservato solo alle candele, come se avessi creato un piccolo velario, un piccolo, come dire, lasciamo stare, ma andiamo avanti. Il prossimo gruppo è sempre più potente, questi sono i Supergrass con Moving. Non fatevi ingannare dall'inizio. Moving, just keep Oh, Questo è un pezzo che capita veramente a fagiolo. Questo pezzo ha segnato un momento importante della mia vita e forse di tante altre vite in giro per il mondo, e soprattutto per il fatto di rappresentare così bene il desiderio di viaggiare, di muoversi, forse anche il desiderio di non tornare a casa, la voglia di non tornare a casa. Si può avere voglia di non tornare, la voglia di non fare qualcosa? È un po' un controsenso in termini, ma è un po' come la voglia di non tornare a terra, di non cedere alla forza di gravità. Forse tornare a casa è proprio questo, quel qualcosa di inesorabile che però non ci permette di perderci. Il freno naturale a tutte le cose. Casa. Io non ci voglio tornare a casa, voglio continuare a viaggiare, a muovermi. Comunque questa puntata lunghissima di Radio Pazza potrebbe essere un viaggio per voi, un viaggio per me. Magari può farvi compagnia durante un viaggio, ve lo mettete nell'MP3 e magari ascoltate questo povero pazzo qui al microfono in treno, sull'aereo, a piedi, correndo, in bicicletta, che ne so, in macchina, se vi va. Tanto è abbastanza lunga da coprire almeno 3 ore del vostro viaggio. E quindi bando alle ciance, io voglio cambiare un po' l'argomento perché vorrei introdurre una piccola sezione. Ho scelto qualche pezzo che aveva per argomento il fischio. È stata una ricerca difficile perché ditemi voi come si fa a cercare una canzone che contenga un fischio. Non è che metti lyrics e poi fischio e cerchi su internet, non è semplice. Insomma, sono stato fortunato, ho trovato alcune canzoncine, alcune sono famose, altre meno. Bene, eccovi qua, Peter Bjorn and John con Young Folks. We can stick around and see. Lo so, è orribile, è sempre brutto quando qualcuno parla sulla coda di una canzone, però è il duro mestiere del DJ, dello speaker radiofonico, ma che ne so. Comunque, questa è una sezione dedicata alle canzoni col fischio e questa forse è stata veramente emblematica, anche perché dà un po' la sensazione di viaggiare in deltaplano. Se siete dei deltaplanisti, contattateci, fateci sapere quali sono le vostre emozioni durante il volo. Magari potremmo leggere il vostro messaggio, addirittura se è un messaggio vocale potete sempre inviarlo a radiopazza@gmail.com. Qualsiasi tipo di file sonoro va benissimo, anche registrato col telefonino, non ci interessa la qualità. Magari lo mettiamo in onda, chissà. Comunque, oggi, proprio oggi, giravo i canali del televisore qui a Barcellona e è passata una pubblicità che mi ha fatto impazzire, a parte per l'animazione grafica veramente carina, però la canzone era straordinaria e andava proprio bene con ciò che avevo in mente di fare questa sera, questa notte. La pubblicità è quella della BP, British Petrol, potete trovarla anche su YouTube ovviamente. E la canzone è stata modificata apposta per la pubblicità, quindi il testo della canzone è stato cambiato dal gruppo solo per fare quei 30 secondi di spot. E infatti il pezzo fa proprio così. Make the day a little better. Make the way a little better. Say hey a little better. It's the place where I want to be. Day a little better. Bellissimo il fischiettino, fantastico, mi è piaciuto proprio tanto e non ho resistito alla tentazione di riproporvi invece la canzone come è, diciamo, resa pubblica nel disco. Il vero titolo è LA e il gruppo si chiama Message of the Blues. Yeah. Ecco, immaginate la scena, no? Il manager del gruppo entra nello studio, va da loro e gli dice: ragazzi, vi ho trovato un contratto straordinario, una pubblicità, diventerete famosi in tutto il mondo, solo che dovete cambiare il testo, troppe femmine, troppe donne, girls, girls, girls, tutto il tempo. Beh, che vuoi fare, così. Comunque l'intento è perfettamente riuscito, la pubblicità è bellissima, carinissima, con tutti i pupazzetti animati in 3D, però devo dire che il pezzo originale ha il suo gran perché, anche se poi, vabbè, lasciamo perdere il contenuto, insomma. Comunque vi lascio a un pezzo di gran classe, sicuramente riconoscerete almeno dove lo avete ascoltato, che è un film molto molto famoso. E il pezzo si intitola Twisted Nerve e l'autore è Bernard Herrmann. Thank you. straordinario questo pezzo, questa esecuzione poi magnifica eseguita dall'Orchestra Filarmonica di Praga. E, beh, questo era Bernard Herrmann, il pezzo intitolato Twisted Nerve è la colonna sonora del originariamente la colonna sonora del film omonimo Twisted Nerve, che non so di che anno sia, credo degli anni 70-60. E purtroppo non l'ho visto, spero di riuscire a scaricarlo al più presto piratamente, e invece molti di voi sicuramente avranno riconosciuto l'uso che ne fa Quentin Tarantino in Kill Bill. Quindi, che dire, un pezzo di gran classe veramente. Ma adesso vi lascio invece a un altro pezzo di gran classe. Questa è una composizione di Nobukazu Takemura, che non è una parolaccia ma è un artista giapponese di musica contemporanea. Questo pezzo, intitolato Let My Fish Loose, è stato anche poi remixato abilmente da Aphex Twin, ma ve lo farò ascoltare magari in un'altra puntata. Comunque, a seguire Nobukazu Takemura con Let My Fish Loose. scelto questo pezzo perché forse era il modo più interessante per concludere questa sezione dedicata al fischio. Sì, non c'è un vero e proprio fischio, ma c'è questo sintetizzatore che suona un po' come un fischio, che è un po' acuto, forse è un'evoluzione, il fischio elettronico, chissà, non sono semplicemente opinioni personali. Comunque, per concludere il discorso sul fischio, volevo un po' puntare l'attenzione sulla poeticità di questo nostro modo di produrre il suono, che è come un po' avere uno strumento incorporato, no? Quasi tutti sono capaci di fischiare, forse i bambini no, però forse i vecchi che non hanno più denti. Comunque è un modo molto intelligente per produrre un suono che possa raggiungere distanze lontane. Sì, magari nasce per motivi ambientali, magari era un modo in cui i cacciatori, i pastori hanno sempre comunicato a distanza, però il modo in cui l'arte l'ha trasformato poi in modulazione pura di suoni, in questa somma di sinusoidi così gradevole e allo stesso tempo così capace di dare fastidio. Veramente interessante il fischio. Lo approfondiremo forse magari in un'altra puntata, forse anche più breve di questa poi. Comunque siamo entrati nella seconda ora di trasmissione. Oddio, ci sto mettendo tutta la notte, però è la mia terapia e che voi l'ascoltiate o meno, sicuramente in qualche maniera mi sta guarendo dalle mie paranoie personali. Quindi, per iniziare un nuovo capitoletto di questa puntata di Radio Pazza, tutta dedicata a me, a Bach, senza interviste, senza la partecipazione di nessun altro, semplicemente mi sono impossessato della rubrica di Radio Pazza, perché questa sera il pazzo sono io. E quindi voglio farvi ascoltare una canzone veramente, veramente, veramente, veramente, veramente, veramente, veramente ad hoc, perché parla d'amore, ne parla in maniera piena di speranza e soprattutto è datata agli anni 70. Questi sono i Chairman of the Board con Give Me Just a Little More Time. Give me just a little more. If we quasi magia il modo in cui la musica in pieno stile Motown è capace di farti dimenticare anche l'ultimo dei tuoi pensieri e anche la cosa che stavi pensando 5 minuti fa. Quindi è anche un buon modo per deconcentrarsi, devo dire. Comunque, siamo entrati in una fase diversa di questa lunghissima puntata di Radio Pazza. Lunghissima perché dovete sapere che sono ormai più di 4 o 5 settimane che non faccio una puntata in cui presento solo musica o comunque non ci sono ospiti né altri speaker insieme a me. Di conseguenza la cartelletta che io tengo salvata sul desktop con la musica selezionata è andata crescendo, ma così tanto che alla fine i pezzi a cui non potevo rinunciare erano diventati troppi. Allora ho detto, sai che c'è, ma che mi importa, tanto non è che ho un format predefinito, faccio una puntata lunga di 3 ore o 4, 5, 6, ci metterò tutta la notte, però pazienza, magari prendetela come una lunghissima compilation di Radio Pazza. Comunque ho scelto come gruppo, no, che gruppo, questa è un artista che grazie agli Alma Megretta, nell'intervista che ci hanno concesso, insomma, qui su Radio Pazza, che poi potete trovare sempre sul nostro blog se cercate nell'archivio o anche nei players che trovate in testa alla pagina. Ecco, su consiglio degli Alma Megretta sto iniziando a documentarmi un po' sul personaggio Shaggy Otis e quindi vi faccio sentire Shaggy Otis con un pezzo intitolato Island Letter. Thank you. se il pezzo precedente magari era più consono con gli innamorati, questo invece è più adatto agli amanti. Mi immagino almeno il 50% di voi, buona metà o più, che balla insieme al suo lei o al suo lui, abbracciati stretti e lentamente, con una luce tendente al rosso-arancione. Oppure chi di voi non ha un partner, magari stretto alla sua mascotte, al suo cagnolino, al suo gatto, al suo criceto, al suo roditore, che ne so. O anche altri semplicemente che si accontentano dell'orsacchiotto, del cuscino. È brutta bestia la solitudine. Ma anche no, c'è il suo gusto. Comunque, grandioso questo pezzo di Shaggy Otis, Island Letter. Difficile adesso magari creare un collegamento o trovare una scusa o una giustificazione al fatto che adesso andrò a suonare un pezzo che sta ancora più indietro nel tempo. Questo era il 1967, 68 o 69, non so bene, correggetemi. Comunque questo è David Bowie che canta una versione italiana di un suo famosissimo pezzo Space Oddity, titolo che omaggia Space Odyssey di Stanley Kubrick, che saluto dall'aldiqua dopo 10 anni dalla sua scomparsa. Comunque il titolo in italiano è Ragazzo solo, ragazza sola. Questo è David Bowie. Vita, lei, cielo,

C'è da dire che in Italia negli anni 60 facevano più soldi i cantanti stranieri che gli italiani. A volte gli italiani fingevano accenti stranieri pur di fare soldi. Che ne so, a me viene in mente Mal e i Primitives. Vabbè, Mal era inglese davvero, però che... Boh. Little Tony? Così, Little Tony fingeva di essere l'Elvis italiano, però cantava con accento italiano, così. Comunque... Questa canzone erano I Corvi con Ragazzo di strada, datata 1966 se non sbaglio. Molti di voi l'avranno riconosciuta in quanto è stata, come dire, riformulata e ripresentata da Tonino Carotone. Confesso che ero tentato di mettere la versione di Carotone, però ho pensato forse aveva più senso far sentire l'originale. Comunque, a seguire vi faccio sentire un artista inglese, americano credo, sì, americano, che ha composto un pezzo molto molto bello che potreste anche vedere sul canale video che trovate nel nostro blog. Il nostro blog è radiopazza.blogspot.com. Quindi vi faccio ascoltare Devendra Banhart con A Sight to Behold. Fateci caso al giro di accordi, è molto simile a Ragazzo di strada. It's a sight to behold when you got some old words to mold and you couldn't make them your own. Still, love, it would be much better. Love, it would be much better, I'm told. It's like gold. Some sparkling thoughts. Still, love, it would be much better. Love, it would be much better. Love, it would be much better. Love, it would be much better. It's like finding home in an old Devendra Banhart. Questa era A Sight to Behold. Chiedo perdono per questo tono di voce così sommesso e furtivo. Mi tocca fare questa trasmissione sottovoce perché sennò sveglio i compagni di casa e quindi automaticamente rifletto un po' la dimensione notturna di questa situazione radiopazza. Notturno, oddio. È così tardi che quasi quasi è troppo presto. Comunque, magari da un'altra parte del mondo non è così. Magari dove siete voi. O magari no. Comunque, sembra quasi di sospirare un segreto nell'orecchio di qualcuno. vi faccio ascoltare subito dopo una canzone appunto intitolata Secret. Questa è la nuova icona lesbo del continente americano, Missy Higgins. You were from the north, I was from the south. We were from opposite places, different towns. But I knew it was good and you knew it was too. And so we moved together like a ball and chain. Minds becoming two halves of the same. It was real, but in the shadows it grew. Cause you got a secret, don't you, babe? I would shout it loud and broken through. I would have given it all to belong to you. But there were different plans and different rules. You said where I'm from is a lock and key. If you'll be so kind as to follow me, well, I will show you the way to the rest of my sins. Cause you got a secret. Don't you, babe? Yeah, you got a secret. Don't you, babe? And I should know. There was a smell in the air of an old place that hadn't seen much daylight in years. And his room down said, if you don't mind, I'm gonna leave you here until nighttime. And we can do it we want, my baby, out of the spotlight. Cause you got a secret, don't you, babe? Sì, lo confesso, rischio di trasformare questo episodio di Radio Pazza in uno di Radio Mantico. Però no, non è così. Diciamo che ho voluto allungare un po' tutte le sezioni per cercare di infilarci al massimo tutti i pezzi che, scremando in questi giorni di assenza, non riuscivo a togliermi dalla testa. E poi non riuscivo a togliermi dalla testa il fatto che non abbiamo ancora mai trasmesso un pezzo degli Air, e quindi colgo l'occasione per mettere la romanticissima Playground Love. Playground Love. sometimes no matter, I'm on fire on the playground. Finalmente ho messo su un pezzo degli Air, questa era Playground Love, credo la voce sia di un certo Gordon Trax, comunque basta cercare su Wikipedia insomma per avere conferma. Il video meraviglioso che si integrava perfettamente con il film di cui questo pezzo fa ancora insomma parte della colonna sonora, The Virgin Suicides, diretto da Sofia Coppola, figlia ereditiera delle arti cinematografiche di Francis Ford. Ma puoi fare di secondo nome come il cognome di un grande automobilista? Comunque, c'entra niente. Vabbè, lasciamo stare. E volevo fare veramente i complimenti a l'ideatore del video che ci ha fatto sognare con la storia di amore fra due chewing gum. Geniale, fantastico, di bocca in bocca. Comunque questo pezzo andrebbe imparato da tutti i giovani adolescenti che ambiscono ad imbracciare una chitarra per essere usato come arma di conquista verso le reciproche appartenenti al sesso femminile. Quasi quasi andrebbe anche rivista in versione rock più svelto. Ma vi lascio in compagnia di Adele. Questa è una, diciamo, una emergente anglosassone che è famosa insomma per un suo pezzo nuovo super programmato che si intitola Chasing Pavements. In questo caso io vi faccio invece ascoltare un pezzo che si intitola Hometown Glory, cioè diciamo un ode alla città di origine. Questa è una mia piccola missione, però va bene. Molti di quelli che mi conoscono sanno che non amo particolarmente il quartiere di Ostia Lido da cui provengo, però vabbè, traumi d'infanzia. E poi vi dirò le ultime novità per quanto riguarda Radio Pazza subito dopo. Questa è Adele con Hometown Glory. Same way as I did, missing out the cracks in the pavement, and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, maybe. Body in short skirts, shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Run my hometown. Visto che ci ho messo quasi tutta la notte per realizzare questa puntatona di Radio Pazza, sento il bisogno di non cedere al sonno e quindi piano piano tornerò a dei ritmi magari un po' più sveltini, anche perché immagino che la gran parte di voi si sarà ormai annoiata di queste canzoni super smielate, avremo tutti già il diabete. Comunque, a seguire vi faccio ascoltare, a proposito d'Inghilterra, un italiano che credo abbia passato già molti anni in Italia, un ragazzo giovane, ma no, scusate, non so che ho detto, volevo dire invece, credo che abbia trascorso molti anni in Inghilterra, non conosco bene la sua storia, comunque un ragazzo molto giovane, ci informeremo presto e vi faremo sapere. Questo è Paolo Nutini, giovane di successo, almeno nel Regno Unito, e famoso per un pezzo intitolato Brand New Shoes, credo. Comunque, questa qui è la sua Jenny Don't Be Hasty. Where you let me I'll be around again to see these other men that are more adequate in the age department. And I did not think you'd care, there'd be no problems here. But now you're looking at me that you're disgusted. And I'm definitely waiting for you to smile and change your mind. Then I'll say I'm sorry and I'll wrap my arms round your body. I really hope that you forgive in a hurry. And don't just ask me to leave, Lord Jenny, don't be hasty. No, don't treat me like a baby. Let me take you where you let me. Because leaving just upsets me. Oh, Jenny, you are crazy. First I'm perfect, then I'm lazy. Now I was calling you my baby. Now it sounds like you just left me. Non so a voi, però a me ricorda molto, almeno in questa canzone, ricorda molto la voce dei Maroon 5. Comunque, alla fine nel pop, più o meno, per conformarsi a un genere, si cerca o di somigliare agli altri o di utilizzare le stesse tecniche, magari canore, chissà, non lo so, non ci ho mai capito molto di questo. Però ci sono sicuramente delle tecniche sotto. Ok, vi propongo quindi, in formula inversa, un artista credo inglese che però propone una canzone con un ritornello in italiano. Bene, questo è Erland Oye, o Oye, non so come si legge bene, comunque potete trovare nome e cognome se sono corretti nel post. E questa canzone si intitola Prego Amore, tra parentesi, Jolly Music. For a woman to be good to me, I was with the other people and they had to eat. Couldn't go alone, I didn't know my way. Don't know how long, so I had to stay. Woke up in the morning with a job to do. 20 seconds later, got stuck in the queue. Went home digging to extend the lines. They're running into rooms, gotta stop all the time. Went up on a hill to get a view to town. Didn't really happen cause the clouds were down. Brought a city player to be checking our song. Didn't do recordables, we moved along. To an elevator garden, overlooking the street. She was standing with the span under the side of her feet. Shout to a plane, seemed to make her a star. She didn't have the time, and she left in the car. Come on. Suck. I was sitting in a rhythm back in the beat. Couldn't see her dancing back on the street. Just because you got the magic happening then, doesn't make it certain it'll happen again. Just because you know someone is looking for you, doesn't have a say in who they're running into. Room? was with the other people and they had to eat. Couldn't go alone, I didn't know my way. Don't know a language, so I had to stay. Woke up in the morning with a job to do. 20 seconds later, got stuck in the queue. Running on digging to extend the lines. They're running into rooms, gotta stop all the time. Mi sa che questo di inglese c'ha veramente poco. Dalla pronuncia suona molto molto tedesco. Non so, magari è amico anche di Schneider TM, chi lo sa. Sì, Schneider TM, che abbiamo intervistato anche lui, abbiamo intervistato su Radio Pazza. Lo potete trovare sempre nel nostro archivio, l'archivio del nostro blog, che è radiopazza.blogspot.com. E quindi viva i figli dei Kraftwerk, fra i quali mi includo per certi versi. Niente, mi è arrivata subito la bussata sul muro. Devo abbassare la voce perché quell'altro dorme. Che palle, vabbè. Di seguito allora vi faccio sentire un remix veramente interessante fatto da Mirwais. Mirwais, che è un artista persiano residente a Parigi ormai da tantissimi anni, molto famoso, sicuramente lo avete già sentito da qualche altra parte, anche perché un suo pezzo è stato messo nella colonna sonora di Snatch, il film di Guy Ritchie con protagonista Brad Pitt, in particolare la sequenza in cui i levrieri si rincorrono cercando di acchiappare un coniglio. Comunque, il pezzo che segue è Mirwais con I Miss You. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been waiting in the hall, I've been waiting on your call. I wanna kiss you. Spero di avervi fatto una gradita sorpresa non dicendovi che questo era un remix di un pezzo famosissimo dei Rolling Stones. E poi di sottofondo infatti c'era appunto il brano di Mirwais di cui vi parlavo prima, quello che è stato utilizzato nel film Snatch di Guy Ritchie. Quindi proseguo con le gradite sorprese e vi dirò solo che chi remixa sono i Teddy Bears, ma non vi dico altro. Il pezzo che segue sarà un'altra sorpresa, sempre per rimanere in tema. Con Staying Alive remixata dai Teddy Bears. Bee Gees che con questo pezzo hanno dato i natali alla carriera artistica di John Travolta, ricollegandoci a prima John Travolta Tarantino che gli ha dato i secondi natali. Comunque, tanto per non chiuderci al loop, vi posso far sentire un altro pezzo che pompa veramente tanto e che ha segnato un momento importante negli anni 80, soprattutto per quanto riguarda la musica giamaicana. Questo è Eddie Grant con Electric Avenue. No place to hang out or washing. Electric Avenue. And then we'll take it higher. Working so hard like a soldier. Can't afford a thing on TV. Deep in my heart I abhor ya. Can't get food for the kid. Good God, we gonna rock down to Electric Avenue. Anche rifatto in versione remixata e modernizzata, almeno stile anni 90, inizi 2000, da Ziggy Marley e i Refugee All Stars. E anche questa spero di potervela proporre magari in una prossima puntata. Comunque vi chiedo ancora scusa per il mio tono di voce che sembra quasi parlare di nascosto, però effettivamente è così. Devo controllare il volume della voce, altrimenti rischio di svegliare i compagni di casa. E quindi mi tocca sospirare al microfono come se fosse l'orecchio del mio ascoltatore, proprio a 2,5 cm di distanza dalle mie labbra. Mi sto sospirando nelle orecchie. Quindi questo era Eddie Grant con Electric Avenue. E per assonanza, o almeno per qualità innovatrice, vi propongo questo artista che non è molto conosciuto, almeno in Europa. Questo si chiama Pushifer e il titolo del pezzo è Quimby. Occhio ai testi. Yeah. Questo pezzo di Pushifer, Queen Bee, Ape Regina, conclude la sezione dedicata ai pezzi che pompano, anche perché a quest'ora della notte o del mattino, insomma, per me è l'alba, e posso dire di essere ormai nel buco del culo della notte, come dice l'amico Beluga. A questo punto c'è bisogno di un cambio, di una variazione. E quindi preferisco farvi ascoltare un gruppo di gran classe davvero, un gruppo che in Italia io credo sia sottovalutato. Questi sono i Casino Royale con il loro ultimo singolo Cosmic Sound. Cosmic Sound is a rootsman sound. Casino Royale have been a champion sound. Matty J last year in town. Mikey J and Earl just a chat them down. Cosmic Sound is a rootsman sound. Casino Royale have been a champion sound. Matty J last year in town. Mikey J and Earl just a chat them down. I and I survive. I'm casting the radio, take a pushing, we need to go pushing. Shh, my turn on it to stereo. That's a fantasy, it's a fantasy. It's a fantasy, and it's a fantasy. In 2000, domani nel 3000. Reggae come again, come prima. Cosmic sound is a rootsman sound. Casino Royale, I feel a champion sound. Matty J last year in town. Mikey J and Earl just a chat them down. Hey, ho, let's go. Sing some person to the label. Hey, ho, some boy. Give you some song, you give it come on. No pop, no style. No sample to love is all it brings. Put a start up on the chase. Cosmic sound is a rootsman sound. Casino Royale, I feel a champion sound. Matty J last year in town. Mikey J and Earl just a chat them down. Cosmic sound is a rootsman sound. Casino Royale, I feel a champion sound. Matty J last year in town. Mikey J and Earl just a chat them down. Grandiosi Casino Royale, io penso questo pezzo sia stato perfetto per compiere il passaggio da una serie di pezzi che pompano a una categoria che forse non è una categoria, però il genere musica italiana. Musica italiana per come la vedo io. Infatti a seguire vi ho messo in sequenza dei pezzi che secondo me sono significativi e rappresentano ciò che è la musica italiana, come la interpreta il mercato e non solo. Qui subito dopo ho scelto un artista che ha partecipato inizialmente con i 99 Posse nella creazione del nuovo hip hop italiano, soprattutto partenopeo, e che prosegue per conto suo alla grande e con ottimi risultati. Bene, questo è Speaker Censo e il pezzo è abbastanza lungo perché prevede più momenti musicalmente parlando. Il pezzo si intitola Viene va. Amore, odio e guerra ci contagiano. Cerco il bene pure dove non ci sta. Tengo il male fuori ma lo lascio libero, perché so che poi ritornerà. L'hip hop, cazzo, tutti parlano di pop, rap. Paradone grosso proprio. Tutti vogliono fare i quattro elementi, la break dance, bella storia, cioè io sono per l'unione e per le cose giuste. Però ogni tanto ci sono degli scassaminchia in giro, no? E quindi io non vedo lo scassaminchia techno, house. Lo scassaminchia è uno scassaminchia e basta. Soprattutto quello che scassa la minchia gratis, a gente che si fa i cazzi propri e spinge sta roba in maniera seria. Ma io a questi proprio, io a sti tipi li piglierei proprio, li camerei di mazzate. Chieste per chi se ne va e sa per che non torno, per chi mi porta il tuo cuore e mi supporta ogni giorno. C'è sta fana statua roro come minima, perché sa c'è buona canna e facile avere a che fa con me. Chieste per chi se ne va e sa per che non torno, per chi mi porta il tuo cuore e mi supporta ogni giorno. C'è sta fana statua roro come minima, perché sa c'è buona canna e facile avere a che fa con me. Sento il fastidio che sale, non posso far nulla, funziona così. Ma so che poi torna la pace e riprenderò il giro da lì. Sento il fastidio che sale stavolta, se riesco mi porto più in là. Posso solo dirti tutto questo male viene. Tenimo a sceneggiati corporato, c'è un cazzamo ristronzato. Simma cresciuta, rosa di scuta, cavoce aizzata. Basta niente, c'è saglio sangue in capo. Ma roppa rui minuta e fornuta, ci hanno già scordato. Ci ha fottuto, fatta casa, ma nata miezza vi. L'educazione a nostro song state, storia a parì. E chi non è da cano un po' capì. S'avvicinano cana bastarda, ma è destinata a fuì. Ma lo cana pazzara amore, lasciano piezze cora ogni persona capè. Zapavì, i voto se sconnetta. Forse papica sta una vita parcheggiata, che fuori che aspetta. Non rimane incerta, troppi suoni scurtati, rindo cassetta. Ho freddo in gola pura notte sotto il coperta. O sangue cascia volando in vena. L'amore per l'hip hop che non si controlla e ci scoppia in pietra. Poi mietaci e delusione accumulata. E pochi soddisfazione che sta vita ci ha regalata. E pensieri accelerati, una capa che rifletta. 24 in coppa 24, 7 in coppa 7. Una guerra che pensiero ogni notte, tutte volte che esce una speranza e poi si giura che la porta a zanna senza motivo, ma si torrongo con la vola, è facile che sto cercando sulla nuova cara amore, perciò tu non daretta, se voto voto fuori strunzata ca bocca, perché una cosa è certa, se ieri pareva che adesso pigliata a cazzotto, oggi è facile che sto che ti aspetta a braccia aperta. Sento il fastidio che sale, non posso far nulla, funziona così. Ma so che poi torna la pace e riprenderò il giro da lì. Sento il fastidio che sale stavolta, se riesco mi porto più in là. Posso solo dirti tutto questo male viene e va. È da un po' che non ci siamo, è da un po' che so che solamente fumo. Gran fattanze mi consumo con il programma con cui mi programmo, grammo per grammo e ci suono. Sto nei disvarioni tra i cursori e il grammofono. Mi abbono per l'abbino da buona, mando versi sereni al microfono. Mi incido da solo, ancora ci campo, ancora ci credo, ancora ci volo. Ma ancora la radio suona la merda che mi sta sul cazzo d'amo. Ci va la pace si dice, sorridi sorrido felice. Spadello sto pollo che cuoce mentre guido sul gas, degustando un novello vivace. Ci parto di brinde sfavella, la salute del mondo ci manda un tas sul più bello. È zero stress, qui chi c'è, questo è quello, questo è quanto. Questo viene e va, diventa un altro. Mi accendo assieme al dopo prima di arrivare al filtro e tac, c'entro il rap che essendo nella magia mi inoltro svarionando inoltre lo scopo da mo sta brillando, in altre parole comunque sia sto nel tre. Oggi muori, mi accottimo, dipingo pezzi vari, varie tonalità. Non farci incazzare, viene va. Sorrido nello scempio, scettico su tutto, metto in un tempio distrutto. Divago sul tema, è il mio unico sollazzo in una scena che ho già visto e rivisto. Si è solo allargato lo spazio, cedendo all'istinto servirebbe allargare pure le vedute. Rispetto, un gesto, le amicizie durature restano le nostre armature. Ma i demoni sono tanti, e hanno tutte facce amichevoli. Fosse facile bandire convenevoli, sarebbe anche più facile scoprire colpevoli. E viene va, questo fastidio che mi toglie il sonno. No grazie, non gradisco il solito, esigo DJ Graffetti Production. E unta, crema della crema, pesa funk prezzo per la giunta. Che sale, non posso far nulla, funziona così. Ma so che poi torna la pace, riprenderò il giro da lì. Sento il fastidio che sale, stavolta se riesco mi porto più in là. Posso solo dirti, tutto vai questo male viene e va. Danno che l'ass, non segna capelegna e poi fa fine in accendina che ha fornuto gas. Assurdità in una città che ne fuoca, siamo pronti a tappicciare per un poco, gente pronta a tassicciare, oh loco. Ma siccità appiccicata e poi mazzata capalla, a siccità rinde capo. Botta ranzi in da panza, lotta canzide, nata notte canza respira e non daranno chance, danza. Che fate neri in da nottata scanza, luce blu e chi da vedi in da nottata stanza. Siamo pedini sta pazziele per i pazzi, nata tazzole le caffè, ma sigaretta coppe e nupone le fata. Viene va, è come al cinema in mattina ma mi attivo tra un paio di ore perché prima c'è il dolore qua. Il male mo si ripropone con più identità, perciò mentre avanzo nel romanzo scansa avversità. È un modo scomodo e finiremo crocifissi come scrissi, perché quando il male ha sopravvento io divento il cane più violento. Quindi per settimane mi arrovento tra personaggi tinti all'indie. Potremmo essere come Mork e Mindy, se solo capissi che ci facciamo dominare dagli istinti. Se solo aprissi il cuore faresti tesoro di quanto ristoro ti danno coloro che hanno poesia nel sonoro. Il loro è il terreno con più amore che posso, sebbene spesso mi porti fastidio addosso. Non è un problema grave, lo so, infatti tra un po' sarà passato del tutto, anche se sono distrutto. E il fastidio viene, va e torna, sta fisso dentro me, è come un parassita. E chi lo sa da sé che questa vita è una continua conta dei perché. E questa è dedicata a chi c'era e che mo non c'è, a tutti i momenti persi e mai più ritornati, ai fratelli sparsi, a quelli che se ne sono nati, fregati dalle sfighe in cui sono capitati o dalle droghe che gli hanno sfigurato i connotati. E sì che sono passati gli anni, ma è amara capì che qua la gente mica impara la gara chi è più furbo o la gara chi fa più il coglione. Più dicono stronzate, più vanno pure aver ragione. Ah, la mia è soltanto un'illusione, so in bilico, terribilmente prossimo al mio punto critico. Non mi identifico più in nulla, resta solo il fastidio che viene e va, ma poi torna sempre a me. Ghiaccio, sabbia, lampie temporali, schegge catrame, notte tra gli squali, ossa che tremano si sgretolano assi, sassi sulla testa, ci muoviamo bassi, seminano bossoli innaffiati con benzina, notiamo i mari mossi carichi di nitroglicerina, persi dentro botole, un'ombra si avvicina, coperti dal silenzio ci aspirano l'adrenalina, ladri di anfetamina, strade senza uscita, drammi in naftalina, dammi un segnale di vita, seta, denti d'oro, diamanti e specchi, pavimenti pieni d'olio, lucchetti sugli occhi. Oramai ti aspetti solo che la guerra scoppi, la paura mille volti e ci ha diviso in blocchi. E mentre il cielo esplode e si odono i rimbombi, la mia mano dalla terra sbuca fuori come zombie. È stato un attimo, un momento ottimo, nulla niente pratica, quella che faccia accent, ori argent, argiaca non teng, arica tratteng rinto, quanti parole gittate, culosse trattate, capubazze, po' parecchio grosso, mos, frasi che mi scivolano addosso come grasso, loro crossover, i passando come un pullover, misco maz, na serenara si fa, na mossa, fa buono, na fa per niente, ne fatte nato, fanatic. Montona una canzone a sola, addosto boss, che ha la giama na fancula, per conoscere il colore che ha la collera, in un colera di galera, per un gallone di ero che pura non era mera realtà, attualità, rest, profondo come un mare di blu, schietto quando va che tosto come una canna e bambù, cercando una stabilità che venà, stanotte do magia a cucca, si uletta ma sta street, giro con meno pazzer in distrizzi, sta città e la musica va. Sento il fastidio che sale, non posso far nulla, funziona così. Ma so che poi torna la pace, riprenderò il giro da lì. Sento il fastidio che sale, stavolta se riesco mi porto più in là. Posso solo dirti tutto questo male. E patramenta va che venga, stu te tenga menta, fa pari, cambia niente, pensa, sapa, si to sienta e capa, come te accenta. Un pena pena quando cora, vena mena si ora l'ora, tiro frena, qualche nore, calore, mantena. Un male genera balena, sa fofela, mai non parallela, pa chi tena, l'acqua in te vena, sciacca mamò, canna donna nemmena. Sabute fila, rosvaria, son che binaria sto trena. A vita cata passa, nanza, ogni stazione una scena. E se visto finale come Gesù Cristo, l'intallur di macena. Scena arrancava e guardo cielo cammina. Il voto accenta, non fa niente, lascia morto che avvena. Si incassa e colpa, roppa scassa catena. Intana massa e cancrena. Para due passa alla pista, ma fuglio stessa e nisciulo samena. Na ressa qua campana, vita compressa. Si vene una scommessa, ma si va fan pressa. Cago rima pressa. Io vengo e vado. Vengo e vado, sono un istante, un frammento d'attimo, scandito da un tempo, da me distante. Seguo il mio battito, attutisco i colpi della vita, lotto nel buco nero tra il cuore e la mente. Mentre sento il fastidio pulsare come un ascesso, anche se fin qui tutto bene, come nell'odio io vivo nel tedio, impantanata in un fosso, nel limbo tra la via d'uscita e l'ingresso. Credo che tutto giri intorno e che tutto torni, e che i segnali siano sempre più chiari di questi giorni. A volte vado, finita da simboli a modi, logo, godo delle piccole cose di ogni sfogo. Inseguo il flow, non il cash come spitti, mi specchio in te, ascolto i matti. Se sbaglio pago, prometto e mantengo, mi rialzo se cado, divago sul tempo, vado e vengo. Lasciamo quindi che il mare col suo andare e venire si porti via questo pezzo dalla durata estrema ma esaustiva. Devo dire come definirlo, non so, questa riunione di elementi dell'hip hop italiano secondo me è molto significativa, perché ci dà un'immagine a 365 gradi di ciò che sono le possibilità che il nostro paese ha di esprimersi attraverso l'hip hop. Ma ora lasciamocelo dietro ed di seguito con questa mia voce sommessa e furtiva vi propongo un Cesare Cremonini da non sottovalutare e da non prendere sotto gamba sicuramente. Questo è il suo Figlio di un Re. Sia figlio di un re o capo di stato, che tu sia buono come il pane, brutto e maleducato, che tu sia pazzo normale, gatto oppure cane, guardia o ladro, non importa se sei fatto ubriaco. Puoi chiamarti dottore, puoi chiamarti scienziato, puoi chiamarti ufficiale, puoi chiamarti soldato, puoi persino morire. Comunque l'amore è laddove sei pronto a soffrire, lasciando ogni cosa al suo posto e partire. Anche tu come me giri a destra o a sinistra, vero per finta è così. La tua impressione è solo un punto di vista, non importa quale donna sposi o come si chiama. Ciò che hai fatto in questa vita, in una vita passata, puoi chiamarti dottore, puoi chiamarti scienziato, puoi cambiare il tuo cognome, usare un nome inventato, puoi persino morire. Comunque l'amore è laddove sei pronto a soffrire, lasciando ogni cosa al suo posto e partire. Anche tu come me, amore, soltanto l'amore può farti guarire. Anche tu come me. Santa, giusta o sbagliata, non importa se dormi in una villa o per strada, che tu sia uomo, donna, frocio, lucio, dalla Sinatra. Puoi chiamarti dottore, puoi chiamarti scienziato, puoi chiamarti ufficiale, puoi chiamarti soldato, puoi persino morire. L'amore, soltanto l'amore può farti guarire, lasciando ogni cosa al suo posto e partire. L'amore è laddove sei pronto a morire, lasciando ogni cosa al suo posto e partire. E partire. Di voi si stia chiedendo che cosa c'entra Cesare Cremonini con Speaker Censo, io rispongo assolutamente nulla, però l'idea di questa ultima parte di Radio Pazza voleva essere quella di fornire due o tre elementi significativi di un panorama musicale italiano contemporaneo, ma non solo, comunque